Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti inizia l'ultima puntata di Focus Economia della settimana. Giornata particolarmente densa oggi, sia perché è stata l'84esima giornata del Mondiale del Risparmio e oggi a Roma sono intervenuti, noi stiamo trasmettendo dagli studi romani di Radio 24, sono intervenuti il governatore della Banca d'Italia Mario Draghi, il ministro dell'Economia Giulio Tremonti e anche il presidente dell'ABI Faisola, così come quello dell'ACRI Guzzetti. Ma insomma, Draghi ha detto alle banche: valutate bene il ricorso all'aumento di capitale, quindi la capitalizzazione delle banche. Ha detto anche alle banche: trovate un altro strumento che non sia l'Euribor per valutare i costi della raccolta di liquidità sul mercato quando prestate soldi per i mutui a tasso variabile. È chiaro che l'Euribor è l'elemento su cui si calcola il costo del mutuo a tasso variabile, ma è anche chiaro che in questo momento il livello dell'Euribor non rappresenta, sono parole del governatore, il vero costo della raccolta, rappresenta in Camera invece il tasso di sfiducia tra banche e banche. E Draghi ha avuto anche, diciamo, un passaggio fuori dal testo scritto dicendo: ma perché non vi fidate le une delle altre, vi conoscete tutte? Allora, la mancanza di fiducia tra banche in questo momento porta ad essere molto più caro il prestito che le banche si concedono, e quindi il tasso interbancario, che è l'Euribor, resta comunque alto, e la differenza tra un prestito senza rischio e un prestito da banca a banca, che una volta era di appena lo 0,1%, è vicina al 2% tuttora. E quindi il governatore ha detto: beh, se l'Euribor non rappresenta più il costo della raccolta ma il tasso di sfiducia, questo lo aggiungo io, tra banche, trovate un altro strumento per calcolare la rata del mutuo, perché sennò fate pagare, questo, anche questo lo aggiungo io, ai cittadini, ai mutuatari, la vostra sfiducia, la sfiducia che c'è tra di voi. Però ha avuto anche parole di cauto ottimismo sull'evolversi della situazione. Certo, ha detto il governatore che fino a metà del 2009 la stagnazione economica continuerà. Il ministro dell'economia Tremonti ha detto: attenzione, noi non abbiamo nessun interesse nell'entrare come governo e come Stato nelle banche, è solo transitorio, anzi da un punto di vista politico è addirittura nocivo per un governo avere azioni di una banca. E poi ha rivendicato il fatto che il governo non ha dato nessuna cifra su quanto costerà poi garantire e tutelare il sistema del credito, il sistema delle banche. Ha detto: se questo decreto, quello che arriverà la settimana prossima al Consiglio dei Ministri, il decreto avrà successo, il successo di quel decreto si vedrà se non verrà tirato fuori nemmeno un euro. Vuol dire che già l'effetto psicologico, l'effetto, diciamo, di fiducia, di garanzia da parte dello Stato è stato sufficiente, senza bisogno di entrare nel capitale delle banche. Ancora, per quello che riguarda la giornata economico-finanziaria, l'incontro tra banche e industriali, quindi Corrado Faisola con Emma Marcegaglia, sempre il tema del credito, sempre i segnali che arrivano dal territorio di un restringimento del credito nei confronti delle imprese. Però devo dire che tutta questa è la cronaca della giornata fino a un minuto fa, o qualche minuto fa, perché si è saputo pochi minuti fa che la CAI, la compagnia aerea italiana, ritira l'offerta, e quindi con Alitalia si riparte da zero, o meglio si riparte non so da dove, perché nonostante i sindacati abbiano firmato, non hanno firmato i piloti e le hostess. Il tema era come selezionare gli oltre 12.300 dipendenti da assumere nella nuova Alitalia e che tipo di forme contrattuali dare a questi dipendenti. I piloti, come spiegava ieri Gianni Dragoni, hanno scoperto che il ruolo di dirigente è un ruolo che forse non gli va più così bene. Insomma, non se ne può più, lo dico senza dare colpa a nessuno, siamo ritornati a capo 12, come si dice in gergo, perché Alitalia riparte da zero. Vediamo se riparte a questo punto, vediamo se anche noi ripartiremo da Roma a Somigliano questa sera, non lo so, si aprono diverse possibilità. Vabbè, buttiamola sul ridere. Mibtel più 1,80%, S&P MIB più 2,2%, quindi bene comunque le borse. Parigi più 1,5%, Francoforte più 3% e Londra più 1,40%. Nonostante la debolezza forte questa mattina dell'Asia, Hong Kong aveva chiuso con 2,5% di calo, il Giappone con il 5% di calo, l'Europa sta chiudendo tutta in positivo. E devo dire che forse questa è la prima settimana, lasciamo stare alcune giornate, in cui dovrebbe essere, vado a spanne, ma dovrebbe essere quasi positivo il bilancio della settimana, cioè la prima settimana in cui le borse forse non si sono mangiate tutti i guadagni con cali di uguale proporzione, se non anche peggiori. Tra i titoli, anzi tra i mercati, segnalo che l'euro, si sta guardando il livello dei punti del MIB, in effetti 16.000 punti, c'è stato un recupero durante tutta la settimana, perché il MIB si avvia a chiudere a 16.391 punti, no, importante perché era da un po' di tempo che non si vedeva una settimana complessivamente positiva sui mercati. Dicevo, i titoli, Bulgari è il peggiore, perde il 3%, Mediaset il 2,20%, Enel perde l'1,3%, Seat l'1,1%, Unipol perde l'1,1% anch'essa, Prysmian e Geox perdono lo 0,6%, Atlantia mezzo punto percentuale di calo. Chi guadagna invece? Beh, molto bene in pregilo, più 11,2, riconquista i 2 euro per azione, Lottomatica più 8,8, Buzzi Unicem più 6,4 e ancora Unicredito più 5,3, più 5, il 5% lo guadagna anche Parmalat, il 4,2 lo guadagna la Popolare di Milano e anche il Banco Popolare, il 3,7 è il rialzo sia di Fiat che di Generali che di ST Microelectronics, ma anche di Eni. Infine 3,5 percentuali di rialzo per ST Microelectronics, Ubibanca e Italcementi, Luxottica e A2A guadagnano il 2% come Mediobanca, Intesa San Paolo più 1,5 come Fondiaria e come L'Espresso. Euro a quota 1,2732, ultima cifra come sempre quella per i vostri sms 349 238 6666. Le notizie in breve. Allora, partiamo dal petrolio, come sempre facciamo, aperto di nuovo in calo a $64,5 al barile, ma è molto buona la trimestrale dell'Eni, come altre trimestrali di grandi gruppi petroliferi, incamerano anche l'alto prezzo del petrolio a luglio, ma comunque l'Eni ha chiuso il terzo trimestre con un utile netto di 2 miliardi e 940 milioni, il 37% in più rispetto all'anno scorso, ma nei primi 9 mesi l'utile dell'Eni è netto è stato pari a quasi 10 miliardi di lire, di euro, per fortuna di euro non di lire, 9,7 miliardi, il 38,5% in più. E poi l'Eni ha annunciato oggi la firma dell'accordo definitivo con il Kazakistan per quello che riguarda il nuovo accordo sullo sfruttamento del giacimento di Kashagan. Il nuovo accordo prevede che in sostanza la società kazaka salga dall'8% al 16,8% nel consorzio e abbia a questo punto lo stesso peso che hanno dentro il consorzio Eni, ExxonMobil, Shell e Total. Una vecchia vicenda, il governo kazako aveva chiesto di aumentare la propria quota e di guadagnare di più visti i ritardi nello sfruttamento del giacimento di Kashagan. In realtà era anche ingolosito dagli alti prezzi del petrolio. Il giacimento di Kashagan è un giacimento particolarmente complesso nell'estrazione di petrolio, opera in estrema profondità con temperature assolutamente proibitive e sono molte le difficoltà di carattere ingegneristico che il consorzio sta incontrando per arrivare a sfruttare quello che viene dai tecnici definito un super giant, cioè un mega giacimento di petrolio. Di gas, scusate. Allora, per quello che riguarda invece all'Italia, nonostante Gianni Letta oggi avesse detto siamo sull'orlo del baratro, non c'è stato verso, la giornata era iniziata con le dichiarazioni di Roberto Colaninno, senza firma sui contratti la CAI uscirà dall'Italia. Il sottosegretario della Presidenza del Consiglio, appunto Gianni Letta, aveva garantito si è fatto garante dell'intesa, aveva proposto un lodo per arrivare all'accordo. CGIL, CISL, UIL e UGL hanno firmato quello che ormai si chiama lodo, ma SDL e Avia non hanno firmato questa proposta, e anche l'ANPAV, ossia gli assistenti di volo, non hanno firmato. E a questo punto, poco fa, la CAI ha detto: non ci stiamo più, usciamo dalla proposta all'Italia. L'inflazione in Italia scende al 3,5% contro il 3,8% di settembre, nel mese di ottobre, ma la Coldiretti afferma è scandaloso che la pasta, con un prezzo del grano dimezzato, continui a aumentare. E noi questa cosa la giriamo ai produttori di pasta, perché non capiamo che cosa succeda dentro questa filiera. Il prezzo del grano, del mais, del frumento si sono dimezzati quasi a livello internazionale. Il prezzo della pasta ha fatto un più 32%. So già l'obiezione vostra: la pasta in realtà incide per poco a cosa, ho capito, però la trasparenza nella filiera deve valere per tutti, non solo per le zucchine o per altri beni. Bisogna capire come mai l'Istat oggi segnali un più 32% sulla pasta rispetto a ottobre del 2007, il pane più 6, l'elettricità più 11, il gas più 16. Calano invece le comunicazioni, meno 3%, ferme le spese per la salute e fermo anche il prezzo dell'abbigliamento e delle calzature. La vendemmia del 2008, quanto vorremmo occuparci della vendemmia invece che della crisi dei mercati. Comunque, magari lo faremo la prossima settimana. Buona la vendemmia del 2008, un 5% in più in quantità, e soprattutto buona la qualità. I prezzi, questo è il dato che arriva da Asso Enologi, saranno inferiori, e questa è una buona notizia. Rispetto a un anno fa, il vino potrebbe arrivare, o perlomeno le uve conferite, avranno un calo fino al 20%. Allora, la Germania si avvia a pie veloce verso la recessione. Il PIL della Germania infatti nel trimestre luglio-settembre avrà probabilmente il segno meno 0,25%, che si aggiunge al meno 0,5% del secondo trimestre. Ai limiti della recessione è già la Spagna, meno 0,2% nel terzo trimestre. Dello stato dell'economia europea ha parlato oggi il presidente della Commissione europea, José Manuel Barroso, che è intervenuto a Milano all'inaugurazione del nuovo edificio dell'Università Bocconi. Sentiamo. As the impact of the financial crisis on the real economy becomes clearer, a mano che si precisa l'impatto della crisi finanziaria sull'economia reale, non dobbiamo perdere di vista il rischio di stasi dell'economia. Questo impatto si sta già facendo sentire in termini di occupazione, reddito delle famiglie e portafoglio di ordini delle imprese. Già il prossimo mese, a novembre, saranno presentate diverse proposte per rendere più rigorosa la regolamentazione applicata alle agenzie di rating del credito. Proporremo inoltre un'iniziativa riguardante le retribuzioni degli alti dirigenti. Rifletteremo su come regolamentare i prodotti derivati, i fondi di investimento e i private equity. Un gruppo ad alto livello da me creato è incaricato di esaminare la vigilanza finanziaria transfrontaliera in Europa. Presenterà le sue prime conclusioni in tempo per il Consiglio europeo di primavera. Ma la sfida più grande sarà quella di riformare il sistema finanziario globale. Gli ultimi mesi hanno mostrato quanto interdipendenti siamo diventati l'uno con l'altro. Riconoscere il fatto che o nuotiamo insieme o affondiamo insieme significa affrontare la sfida con un grado di cooperazione internazionale senza precedenti. Il quadro istituzionale alla base della governance globale, comprese le istituzioni di Bretton Woods, dovrà ora essere opportunamente modificato per fornire appropriate linee guida. Così il presidente Barroso. Allora, alcune notizie appena battute dalle agenzie. In realtà la CAI dice di essere intenzionata a ritirare l'offerta su Alitalia, quindi vedremo se in realtà, come la vicenda Alitalia ci ha abituato in questi mesi, vi sarà l'ennesimo cambio di fronte dell'ultimo minuto. Mentre una buona notizia arriva per chi ha un mutuo o chi vuole chiedere un mutuo in banca, nel senso che i tassi praticati dalle banche per mutui superiori ai 10 anni sono scesi sotto il 6%. Ciò nonostante, secondo la Confesercenti, 84 italiani su 100 arrivano con difficoltà a pagare la rata del mutuo o del prestito e 64 italiani su 100 escludono in maniera categorica di accendere un mutuo per il 2009. Tant'è che sempre secondo la Confesercenti la crisi finanziaria avrebbe già mandato in fumo il 17% degli investimenti fatti. Invece una buona notizia arriva sull'Euribor, ancora giù e al 4,76% con scadenza a 3 mesi. Quello che invece è ulteriormente aumentato è lo spread, ne abbiamo parlato ieri, la differenza tra quanto rende un'obbligazione tedesca e l'equivalente obbligazione italiana, ossia il Bund rispetto al BTP, ebbene è passato adesso a 132 punti, l'1,3%, un livello che non si vedeva da ben prima dell'euro, e non si capisce se sia solo il flight to quality, ossia la necessità degli investitori istituzionali di comprare prodotti massimamente garantiti, e sicuramente il Bund è più garantito del BTP italiano. Adesso restiamo sul tema del risparmio, perché oggi appunto in occasione dell'84esima giornata mondiale del risparmio sono intervenuti il ministro Tremonti e poi il governatore della Banca d'Italia Draghi. Già nel fare gli onori di casa il presidente dell'ACRI Guzzetti aveva detto: le fondazioni bancarie continueranno a tutelare l'italianità degli istituti del nostro paese. Era arrivato anche all'inizio dei lavori il messaggio del presidente della Repubblica Napolitano al presidente dell'ACRI, che aveva detto: misure immediate servono per fronteggiare l'attuale fase di eccezionale difficoltà dei mercati finanziari e soprattutto occorre un maggiore coordinamento degli interventi dei governi e delle altre istituzioni. Allora, Giulio Tremonti ha preso la parola e viste alcune voci così in questi giorni che dicevano le banche sono restie a far entrare lo Stato, il governo, con il piano che anche l'Italia, come tantissimi altri paesi, 20 paesi in tutto, hanno messo in piedi, cioè i governi entrano o con azioni di privilegio, cioè senza diritto di voto, oppure come in Inghilterra con azioni ordinarie, per garantire solidità al capitale delle banche. Tremonti ha voluto chiarire subito che qualunque intervento dello Stato dentro le banche sarà solo transitorio e che non c'è nessun interesse da parte del governo e dello Stato nell'entrare nel capitale delle banche. Viene fatto solo ed esclusivamente per garantire le banche in questa situazione di estrema difficoltà. Il finanziamento all'economia, il credito, si fa con soldi veri e non con soldi inventati, e appunto con il risparmio. Ed è questo un ordinamento, un sistema nel quale pienamente ci riconosciamo. E in questi termini formalmente dichiariamo che non riteniamo compito del governo fare banca. Non è compito del governo avere banche. Non banche ordinarie, non banche centrali. Avere azioni di banca può essere solo una transitoria, strumentale necessità, ma non è e non può essere una sistematica primaria realtà. Non occorre leggere Machiavelli, è sufficiente andare per strada per capire che per un governo in regime democratico, e aggiungo di questi tempi, avere azioni di banca nuoce gravemente alla salute politica. È stato detto: non è un intervento vero perché non c'è dentro un euro. Noi riteniamo che sia un intervento vero anche se non c'è dentro un euro. In una logica ottimale e funzionale, di funzionamento tipico questo delle macchine di intervento di tutela e di precauzione, una cosa di questo tipo funziona se non funziona. Funziona se esclude l'intervento concreto, essendo sufficiente nella logica filosofica della precauzione, la prevenzione. Noi riteniamo prevenzione che questa sia, e riteniamo in pieno, penso, accordo con le autorità preposte alla vigilanza, a partire dalla Banca d'Italia, riteniamo che sia fondamentale nella funzione di Vigilanza alla funzione di prevenzione. E allora è chiaro il ragionamento del Ministro dell'Economia, dice l'aiuto alle banche sarà vero anche se il governo non dovrà e lo Stato tirare fuori un euro, perché vorrà dire che ha funzionato il principio della garanzia in primo luogo verso il capitale delle banche. Ancora il Ministro dell'Economia ha aggiunto: occorre costruire un nuovo mondo per quanto riguarda l'etica e le leggi che intervengono e regolano i comportamenti dei soggetti finanziari. Il governatore della Banca d'Italia ha preso la parola poco dopo. Mario Draghi ha dato un primo, diciamo, panorama, scenario dal punto di vista macroeconomico: la stagnazione dell'economia, c'è chi parla già di recessione, comunque la frenata e la stagnazione dell'economia durerà fino a metà del 2009. L'Italia, al pari degli altri grandi paesi dell'area, sta risentendo dell'avversa congiuntura internazionale. Il rallentamento della domanda mondiale frena le nostre esportazioni che avevano sostenuto l'economia nell'ultima fase espansiva. Vi si associa la debolezza della domanda interna, la moderata dinamica del reddito disponibile reale delle famiglie, l'incertezza aumentata dall'aggravarsi del clima economico si riflettono sui comportamenti dei consumatori. Si comprimono le spese, soprattutto quelle più facilmente rinviabili. Gli acquisti di beni durevoli, quelli di autoveicoli in particolare, si sono fortemente contratti. Attese di una domanda in flessione, maggiore avversione al rischio influenzano negativamente le decisioni di investimento. I sondaggi congiunturali della Banca d'Italia e di altri istituti di ricerca segnalano che l'accumulazione risulterà quest'anno inferiore a quella programmata. Le attese per l'anno prossimo sono di un'ulteriore contrazione rispetto al consuntivo 2008. Sulla base dell'evoluzione della domanda mondiale oggi prevista dai principali organismi internazionali, la stagnazione in atto proseguirà almeno fino a metà del prossimo anno. Questo per quello che riguarda lo scenario macroeconomico. Dopo le informazioni meteo e la pubblicità, invece, ascolteremo i passaggi principali dell'intervento del governatore per quello che ha a che fare questa crisi e quindi l'invito alle banche a valutare bene e in maniera pragmatica quando e quanto ricapitalizzare, e l'invito alle banche a stare attente alle famiglie più vulnerabili, usare un criterio diverso dall'Euribor, questa sarebbe una vera rivoluzione, e ancora la richiesta che cambia anche la tassazione sui risparmi, per esempio nei fondi comuni, basta tassare il guadagno maturato, ma meglio tassare il guadagno effettivamente realizzato quando si esce dal fondo. Una nota: molti di voi ci stanno scrivendo al 349-238-6666 dicendo: ma insomma, vi occupate sempre, non direi di no, ma insomma spesso di Alitalia, ma ci sono altre situazioni di crisi, il distretto della sedia in Friuli di Manzano è in estrema difficoltà, sesta società e azienda che chiude, difficoltà nel nord-est che esporta, difficoltà nei rapporti con le banche. Allora, avete ragione, e mi riprometto dalla settimana prossima andare a vedere il più possibile, per quello che riusciremo a fare, anche cosa succede nel resto dei distretti produttivi. Purtroppo su Alitalia, l'abbiamo detto molte volte, c'è una valenza politica e anche di servizio, che è brutto dirlo, ma è chiaro che se si bloccano i voli aerei in questo paese il danno, l'impatto è peggiore che se non, diciamo, vanno in cassa integrazione alcuni dipendenti. È brutto dirlo ed è anche sbagliato, ecco perché chiedo venia, ammetto la colpa, e dalla settimana prossima cercheremo di trattare anche altri casi di settori economici in difficoltà. Lo dico perché abbiamo aperto questo programma ricordando come, secondo fonti della CAI, la CAI è pronta a ritirare l'offerta a questo punto, visto il no alla firma di hostess e piloti. Noi invece continuiamo con l'intervento del governatore Draghi, che dopo aver ricordato quello che è lo scenario economico, ossia stagnazione fino a metà del 2009, ha detto alle banche, che lui vigila, diciamo: attenzione, state più attente alle famiglie più vulnerabili e quindi siate particolarmente attente nella gestione dei rapporti con le famiglie, soprattutto quelle più deboli, perché c'è una difficoltà in questo momento sui mutui, si sta realizzando e Draghi ha aggiunto anche altre cose nel suo intervento, ma poi ha detto usate un tasso diverso dall'Euribor, visto che l'Euribor in questo momento sconta come prezzo, come livello, non tanto il costo della raccolta di soldi, ma la sfiducia tra banche, solo che poi questa sfiducia la pagano anche e soprattutto i cittadini che hanno un mutuo e poi le imprese che hanno un prestito. Le famiglie italiane sono fra le meno indebitate del mondo avanzato, non soltanto nel confronto con i paesi anglosassoni, ma anche con quelli dell'Europa occidentale, continentale. Il rapporto tra debiti finanziari e reddito disponibile è da noi minore del 50%, è del 90% in media nell'area dell'euro. Il 70% delle famiglie possiede un'abitazione di residenza, ma quelle che hanno contratto un mutuo non raggiungono il 15%. La forte crescita dei mutui registrata in questo decennio ha riguardato principalmente le famiglie che appartengono alle classi di reddito e di ricchezza medio-alte, meglio in grado di far fronte all'onere del debito. Ma per le famiglie indebitate la rata di rimborso assorbe una quota crescente delle entrate correnti. L'ampia diffusione dei mutui a tasso variabile negli ultimi anni ha comportato un aumento dell'incidenza della rata sul reddito disponibile, che alla metà di quest'anno superava il 20%. Le famiglie con redditi più bassi, l'1% del totale, sopportano oggi una rata stimabile in quasi il 40% del reddito disponibile. Il numero e l'ammontare delle insolvenze sui prestiti alle famiglie rimangono molto contenuti e non si discostano dai valori registrati negli ultimi anni. È nell'interesse delle stesse banche adottare un approccio pragmatico e flessibile, valutando anche su base bilaterale le soluzioni più idonee a contenere il servizio del debito delle famiglie più vulnerabili e a salvaguardarne in questo modo la solvibilità. Occorre inoltre considerare che un'ampia quota dei mutui a tasso variabile è ancorata nel nostro Paese al tasso interbancario Euribor. Oggi, a causa delle tensioni sui mercati interbancari e della rarefazione degli scambi, l'Euribor non riflette più adeguatamente il costo della raccolta. In prospettiva, è opportuno che le banche utilizzino per l'indicizzazione dei mutui a tasso variabile parametri più strettamente collegati all'effettivo costo della raccolta. E insomma, è nello stile del governatore della Banca d'Italia Mario Draghi non mandarle a dire le cose, ma dirle direttamente. Eppur con tutto il garbo che il ruolo istituzionale richiede, Draghi ha detto, l'avete appena sentito, chiaramente alle banche, visto che l'Euribor sta scontando il tasso di sfiducia tra di voi, per cui il livello è molto alto perché le banche non si fidano a prestarsi i soldi le une con le altre e quindi il tasso aumenta, cioè il costo per prestarsi i soldi aumenta, non è giusto che utilizziate questo Euribor per calcolare la rata dei mutui, visto che non è aumentato il costo della raccolta. Nelle famiglie italiane, lo ha detto lo stesso Draghi, il numero delle insolvenze sui prestiti è fermo, quindi non c'è motivo per cui si debba far pagare di più il mutuo a chi ha un tasso variabile o il prestito all'impresa che l'ha contratto anni fa. Non esiste un motivo se non la sfiducia tra le banche, vedetevela voi e utilizzate un altro strumento per calcolare la rata dei mutui. Devo dire che il governatore, fuori anche dal testo, come ricordavamo, ha detto insomma non vi fidate tra di voi, di voi, e non si capisce perché vi conoscete tutte. So cosa aggiungono i più maliziosi, ecco perché non vi fidate. Però la battuta è troppo facile e infatti non la facciamo, andiamo avanti con gli interventi del governatore della Banca d'Italia, il quale ha anche aggiunto, sempre sul fronte dell'intervento dello Stato nelle banche, in linea con quanto dichiarato il ministro Tremonti, ha detto sì, bene l'intervento dello Stato, lo hanno fatto tutti, è una garanzia importante, basta che sia temporaneo. L'emergenza richiede che le autorità adottino politiche più interventiste che in passato, assumendo anche ove occorra temporanee responsabilità patrimoniali nelle istituzioni finanziarie. L'intervento dello Stato deve essere temporaneo e non intrusivo. In Italia i provvedimenti adottati hanno tranquillizzato i risparmiatori, stanno alleviando le tensioni sul mercato interbancario. La solidità dei bilanci bancari e i chiari impegni delle autorità garantiscono la stabilità del sistema. I depositanti delle banche sono al sicuro. L'impegno a ridurre il debito non viene meno. Con il sostegno temporaneo alle banche nella forma di capitale, lo Stato acquisirà attività redditizie, ne realizzerà il valore quando esse saranno restituite al mercato. Tutti gli strumenti perché il nostro sistema bancario, ben più sano di altri, torni alla normalità, sono stati approntati. Non nell'interesse delle banche, ma in quello generale delle famiglie, delle imprese. L'economia italiana soffrirà, come tutte le economie avanzate, le conseguenze di questa crisi. Se si attesta sul suo baricentro, fatto di alto risparmio, basso debito privato, sistema produttivo vitale, sistema finanziario fondamentalmente solido ed efficiente, sopporterà la crisi con danni limitati e buoni presupposti per una ripresa. Grazie. Allora, è chiaro anche in questo caso il messaggio del governatore della Banca d'Italia, che ha detto attenzione, esistono degli elementi di fiducia nel sistema italiano, e ha ricordato attenzione tutti gli strumenti messi in atto, compreso l'ingresso temporaneo dello Stato nelle banche, sono strumenti non per difendere e proteggere le banche, e detto dal governatore della Banca d'Italia non è male, ma per difendere e proteggere le famiglie e le imprese. Quindi il messaggio sotto traccia era: attenzione banche, questi interventi vengono fatti perché voi non chiudiate il rubinetto del credito alle imprese e alle famiglie, non perché diciamo rimettete a posto i conti e poi chi si è visto si è visto. Altro passaggio del governatore: la tassazione, ha criticato un livello di tassazione sul risparmio italiano troppo alto, così come nei fondi comuni di investimento, ha detto Draghi attenzione a tassare il maturato, cioè il guadagno virtuale anno per anno e non il realizzato, crea delle distorsioni soprattutto poi quando il valore dell'investimento cala, ma tu sei stato tassato magari l'anno prima su un guadagno che non è mai realizzato. E poi l'altro grosso appello, con questo chiudiamo per la parte che riguarda il governatore, alle banche: siate pragmatiche e quindi valutate in maniera pragmatica quanto avete bisogno di ricapitalizzare, ossia quante sono le perdite che avete accumulato con investimenti in prodotti tossici e quindi di quanti soldi avete bisogno per ripianare queste perdite. È illusorio ritenere, come dimostra l'esperienza internazionale, che a una maggiore capitalizzazione corrispondano migliori corsi di borsa. Ma occorre tenere a mente una delle lezioni più importanti di questa crisi. Il futuro sistema finanziario dovrà avere meno debiti, più regole, ma certamente più capitale. Occorre anche considerare l'opportunità di far fronte a future necessità derivanti dall'indebolimento dell'economia reale. È bene che le banche italiane, i loro azionisti e manager abbiano nei confronti delle esigenze di ricapitalizzazione un approccio pragmatico. Vanno adottate tutte le misure e colte tutte le occasioni per irrobustire la base patrimoniale. Dismissioni di attività non core, decisioni realistiche e rigorose nella politica dei dividendi, ricorso al mercato, che deve restare la strada assolutamente prevalente sia in tempi ordinari sia in tempi straordinari, uso delle risorse messe a disposizione dallo Stato. Sono tutte iniziative che la Banca d'Italia considera coerenti con una sana e prudente gestione nella situazione di oggi. Insomma, pragmatiche, ricorrete a tutti gli strumenti che vi abbiamo, sembrava quasi dire il governatore, o comunque che lo Stato vi ha messo a disposizione: c'è il mercato, c'è anche la garanzia dello Stato, attenzione ai dividendi e quindi a vedere bene se distribuire l'utile oppure tenerlo in cassa, ma non facciamo finta di nulla e non abbiamo atteggiamenti così ideologici nei confronti dell'eventuale aumento di capitale. Questo pensiero in sintesi del governatore della Banca d'Italia. Allora, numerosi messaggi che arrivano su altri distretti del paese, molti nel nord-est ma anche in Lombardia in difficoltà, le carte, addirittura l'Ippica, la Concia nel Vicentino, le Cartiere e anche altre imprese nel Bergamasco. Ripeto, cercheremo di occuparci anche di questo. È vero che Alitalia ha avuto un peso come copertura mediatica sproporzionato rispetto all'impatto sull'economia reale, a mio avviso proporzionato per quello che riguarda il ruolo di Alitalia sia come servizio sia anche come elemento politico. Comunque, nella seconda ora parleremo anche del rapporto banche-imprese, perché non c'è solo l'allarme, comunque le cautele avanzate da Mario Draghi nei confronti del rapporto tra banche e risparmiatori, quindi mutuatari, ma c'è anche il problema di quanto le banche stanno stringendo sul credito alle imprese. Vige sempre il solito ragionamento fatto dal governatore: se non vi fidate le une delle altre, non fate pagare questa sfiducia tra di voi a tutto il sistema economico, quindi cittadini e imprese. Almeno questo concedetelo, visto che quando questi prodotti tossici rendevano tanto negli ultimi anni, le banche tutte a livello europeo e mondiale guadagnavano il 30-20% all'anno in borsa come titolo, E adesso abbiamo capito perché. Ora che lo perdete, diciamo, non scaricate su di noi tutte le vostre scelte. Giustamente alcuni ascoltatori segnalano che sono pochissimi i manager in Europa che sono saltati. Aspettiamo e vediamo se anche lì la meritocrazia spesso invocata c'è anche nel mondo bancario. Qualcuno avrà la responsabilità di aver investito in certi prodotti, no? O è sempre Jérôme Kerviel e i suoi amici trentenni che, diciamo, erano la banda Bassotti a livello mondiale? Non penso. La borsa, Mibtel più 2,6%, S&P MIB più 2,9%. Jérôme Kerviel era quel manager di BNP Paribas, di Société Générale, che fu accusato di da solo avere creato un danno da 5 miliardi, una barzelletta vera e propria. Poveretto Jérôme. CAC 40, ossia Parigi, più 2,3%, DAX 30 più 2,4%. Il FTSE, ossia Londra, più 2%, Dow Jones più 1%, in questo momento Nasdaq più 0,80%. I titoli migliori oggi sul listino si chiamano Impregilo più 11,4%, Italcementi più 9,3%, Lottomatica più 9,1%, Ubibanca più 7,3%, Buzzi Unicem più 6%, Unicredito più 5,8%, Banco Popolare più 5,4%, Parmalat più 5,3%, Prismian più 5%. Come il Monte dei Paschi, il 4,90 lo guadagna Luxottica, il 4,80 la Popolare di Milano, e poi c'è anche Eni più 4,3, Generali più 3,5, Steam Microelectronics più 3%, Fiat più 3,1, Telecom più 2%. Come sempre i mercati con Radio Core, il Sole 24 Ore. Eleonora Micheli, buonasera. Buonasera a tutti. Pochi titoli oggi, abbiamo avuto lunghi interventi del governatore della Banca d'Italia che abbiamo fatto ascoltare. Allora, Impregilo. Sì, Impregilo è stato il miglior titolo tra quelli, sì, a maggior capitalizzazione, come hai detto tu, più 11,4%. A sostenere la società sono sia i giudizi positivi degli analisti dopo che le azioni sono scivolate molto nel corso delle ultime settimane, ma soprattutto la speculazione sul fatto che l'azienda sia nel mirino del fondo della Libia, che potrebbe essere interessata anche in virtù del fatto che Impregilo sta portando avanti dei progetti proprio in Libia, di costruzione ovviamente. Ancora molto bene Eni, ma la trimestrale l'abbiamo ricordata, cresce tantissimo del 38% l'utile nei primi 9 mesi, vanno bene tutti i gruppi petroliferi, non solo Eni, Exxon, Mobil, insomma il petrolio rendeva tanto a 140 e passa dollari al barile. Italcementi più 9,30, l'Automatica più 9,15, Ubibanca l'abbiamo detta. Tutti i beni bancari, anche se ho visto una giornata un po' altalenante, però poi alla fine hanno chiuso bene. Eleonora. Esatto, appunto i titoli bancari continuano praticamente a recuperare punti dopo che invece nelle ultime settimane erano stati quelli che avevano accusato la peggior performance. Soprattutto sono andati bene Unicredit, ma anche MPS, UBI più 7,3%. UBI ad esempio è la banca preferita dagli analisti di Citi. Era invece rimasta negativa fino a poco prima della chiusura Intesa San Paolo, ma secondo i trader soprattutto succube delle prese di beneficio dopo 2 giorni di consistenti rialzi. Poi sul finale comunque i titoli hanno girato e hanno vantato un progresso dell'1,8%. Ancora per quello che riguarda i titoli, oggi abbiamo visto andare male, diciamo, in maniera peggiore rispetto sicuramente alla media del listino, Bulgari meno 3%, Unipol meno 2%, Pirelli meno 1,80%, Seat meno 1,3%, Geox meno 1%, Enel -0,95% l'euro è a quota 1,27,33 nei confronti del dollaro in questo istante. Grazie, Eleonora Michele, Radio Cori sulle 24 ore. Molti messaggi arrivano anche sull'intervento del governatore Mario Draghi alla giornata mondiale del risparmio. Alcuni contestano, diciamo, sono prediche inutili se non si spiegano i meccanismi. Molti di voi si riferiscono soprattutto all'invito fatto dal governatore alle banche a utilizzare un altro strumento che non sia l'Euribor per calcolare il costo della raccolta e quindi anche il costo dei mutui, perché l'Euribor in questo momento, lo ripetiamo, è alto come tasso, non perché ci siano mutuatari insolventi o imprenditori che non riescono a pagare, ma perché le banche tra di loro non si fidano. Devo anche dire, non per fare una difesa d'ufficio del governatore, che non poteva il governatore indicare lo strumento, né può obbligare le banche a utilizzare un altro strumento. L'iniziativa della Banca d'Italia molto spesso, al di là dell'iniziativa di controllo sulla prudente gestione, è un'iniziativa che si chiama in gergo di moral suasion, cioè di invito sostenuto, forte, stentorio delle volte, a muoversi in una certa direzione. Poi nessuno si può augurare che vi siano rapporti tesi tra la Banca d'Italia e le banche che essa contribuisce a vigilare. Sempre in tema di banche, l'incontro dopo la giornata mondiale del risparmio tra l'ABI, che riunisce le banche italiane, e la Confindustria per evitare il rischio di chiusura del credito o stretta sul credito alle imprese. Allora sentiamo la nostra Chiara Di Michele, che ha intervistato prima Corrado Faissola, presidente dell'ABI. Confindustria e ABI dicono: abbiamo richieste comuni da fare al governo. L'attività svolta dalla Confindustria e da ABI hanno cominciato a dare delle indicazioni più precise su quelle che sono le iniziative che intendiamo prendere e portare avanti insieme nei confronti di tutti gli altri stakeholder. E queste iniziative si concentrano su due filoni convergenti ma distinti. L'uno sono le azioni che noi andremo a definire lavorando insieme per superare tutta una serie di problematiche che ci sono. La seconda filone è quello che lavoreremo insieme per proporre in particolare al governo delle nostre ipotesi di soluzioni che attengono ai temi sui quali abbiamo concentrato la nostra priorità. E quindi rivendica anche la portata dell'accordo tra ABI e Confindustria, il presidente dell'ABI Faissola. Ricorderete un accordo di poco più di una settimana fa per monitorare quello che succede nel rapporto banca-imprese, con la postilla che questo monitoraggio vada effettuato soprattutto a livello territoriale, quindi le associazioni territoriali di Confindustria andranno a guardare come vedere se arrivano segnalazioni dagli associati di un inspiegabile e ingiustificato giro di vite sul credito da parte di alcuni gruppi bancari o delle loro filiali sul territorio. Le richieste del presidente Confindustria Marcio Gaglia. L'obiettivo è di non far mancare il credito alle imprese. I punti su cui abbiamo deciso delle azioni comuni sono quattro. Il primo riguarda azioni comuni per la patrimonializzazione delle imprese. Noi pensiamo che in un momento come questo sia assolutamente fondamentale avere degli strumenti a supporto di un aumento di capitalizzazione, di patrimonializzazione delle piccole e medie imprese. Un'azione comune di natura fiscale e di natura finanziaria per una maggiore patrimonializzazione delle imprese. Il secondo tema è il tema dei rating. Abbiamo deciso insieme di far sì che ci sia una trasparenza degli elementi e dei rating, che le banche, appunto, con le singole imprese dicano con chiarezza quali sono gli elementi in base al quale danno un rating alle imprese. Il terzo tema è il tema dei confidi e dei fondi di garanzia per le imprese, e diciamo che le banche si sono impegnate a far sì che vengano utilizzati di più, vengano concessi più crediti alle imprese attraverso questo meccanismo dei confidi. L'ultimo aspetto è il tema annoso dei debiti della pubblica amministrazione nei confronti del sistema delle imprese. Andremo regione per regione insieme, dovremo ottenere un meccanismo per cui questi crediti delle imprese vengano certificati e vengano imposti, insomma, dei termini massimi di pagamento oltre i quali, insomma, non è possibile che questi crediti rimangano impagati. E quindi quattro le iniziative di carattere fiscale per agevolare l'aumento di capitale, la patrimonializzazione delle imprese, i rating utilizzati per concedere il credito che siano abbastanza omogenei tra banche e banche all'interno del territorio, i confidi e poi tutta l'annosa questione dei crediti che centinaia di imprese vantano nei confronti della pubblica amministrazione che paga con tempi oggettivamente che non si vedono nel settore privato. L'altra notizia di oggi, al di là delle banche, del governatore e dell'intervento del Ministro dell'Economia Tremonti, riguarda l'inflazione. È scesa, è una buona notizia, è scesa al 3,5% ad ottobre rispetto al 3,8% di settembre, ma ripeto, in maniera inspiegabile, la pasta è cresciuta del 32% nonostante il prezzo sui mercati internazionali di farina, mais, grano duro, frumento, chiamatelo come volete, insomma... pane e pasta sono cresciute, ma non i prezzi delle materie prime che li compongono, e quindi non si capisce cosa stia succedendo nella filiera. Più 32% e anche il pane a ottobre ha fatto un altro 6%, ossia il doppio dell'inflazione. Dopo le informazioni per chi è in viaggio parliamo di Alitalia. Leggo però un SMS che può essere quasi uno snodo tra i problemi delle piccole e medie imprese e l'Alitalia. La mia azienda vanta 900.000 euro da Alitalia, la mia banca mi ha chiesto di rientrare, ho posto in cassa integrazione 20 persone e Alitalia continua a volare con i miei soldi. Allora, l'Alitalia, da che parte la prendiamo l'Alitalia? Beh, insomma, speriamo da una parte che si possa raccontare, perché è successo di tutto oggi su Alitalia, nel senso che già ieri sera si era capito, e ieri si era capito che la trattativa buttava male, però questa mattina lo stesso Gianni Letta, e mi riferisco quindi al sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, si era fatto garante per un documento di premessa al contratto, un documento chiamato Lodo Letta, da proporre a tutti i sindacati, appunto, che vedeva il governo farsi garante della stessa intesa. Purtroppo le cose non sono andate come ci si poteva attendere. Allora parliamo di Alitalia. Perché poi cosa è successo? È successo che la CGL, la CISL e la UIL hanno firmato il lodo, ma non l'hanno firmato il sindacato dei lavoratori, l'associazione degli assistenti di volo e anche i piloti, tutti e due l'associazione dei piloti, sia ANPAC che Unione Piloti. E poi nemmeno l'ANPAV ha firmato il lodo. In sostanza, nel documento era una premessa al contratto. Il nodo vero e proprio riguarda i criteri di selezione dei 12.000 e passa dipendenti della nuova Alitalia e anche i termini contrattuali, tra cui, come ricordava ieri il nostro Gianni Dragoni, anche il fatto che i piloti hanno scoperto che il contratto da dirigente non è più così vantaggioso, perché il dirigente è, come in qualunque lavoro, più facilmente licenziabile, o dovrebbe essere, rispetto al dipendente. Alcuni di voi dicono: sì, ma non raccontate che Rothschild ha valutato all'Italia 900 milioni mentre la CAI offre solo 400 milioni, in sostanza se la compra quasi svalutando il valore reale dell'azienda. realtà ne abbiamo parlato molte volte. Il valore dell'azienda dipende da tante cose, dai suoi asset, ma dipende anche dalla situazione in cui ci si trova. Voglio dire, siamo arrivati con una società che a novembre finisce i soldi. È chiaro che probabilmente comprare adesso si tratta e si ottiene qualcosa di più rispetto a qualche mese fa, ma allora la domanda è: se l'offerta della CAI piace così poco, perché non hanno firmato quella di Air France, i piloti stessi, gli assistenti di volo? A marzo così si volava francese e noi ci si poteva occupare di qualcos'altro, appunto, delle piccole e medie imprese del nord-est, di chi è in difficoltà, dei cassi integrati in altri settori e non sempre solo dei dipendenti all'Italia, che quando anche andranno in cassa integrazione avranno 7 anni di cassa integrazione garantita. Non so, non capisco. Comunque forse mi aiuterà a capire qualcosa in più Fabio Berti, presidente dell'ANPAC, ormai quasi più un divo che un sindacalista, che racconta perché non hanno firmato. Noi non vogliamo altro, e non avevamo voluto altro, che attenerci a quanto firmato a Palazzo Chigi con lo stesso governo e con la stessa CAI. Invece è stato abbandonato, è stato fatto un altro lavoro. Quindi non capisco chi ha sottoscritto oggi questo impegno, come fa, diciamo, a farlo alla luce di quello che è avvenuto. Secondo punto, noi abbiamo tantissimi esuberi da gestire, lo sapete benissimo. Per quello che riguarda i piloti, gli esuberi credo che siano 860 esuberi. Sono un numero enorme. Noi non abbiamo detto di no, abbiamo soltanto chiesto la possibilità di gestire queste persone in modo tale che le scelte vengano fatte senza traumatizzare una fetta particolare della categoria. Perché comunque è una scelta negativa, è una scelta durissima, ma va fatta una scelta equilibrata. E nei criteri di selezione questo non ci è stato concesso. Continuo a non capire l'oggetto del contendere, ma ripeto, è probabilmente colpa mia, continuo a non capire quale sia il problema. Io immagino che un nuovo acquirente di una società abbia anche tutti i diritti di scegliersi il personale come vuole, poi d'accordo con i sindacati, ma non è che adesso deve scegliere quelli che vogliono i sindacati. Non capisco, ma mi adeguo. E allora sentiamo anche il coordinatore nazionale della SDL, Fabrizio Tomaselli. Ci hanno proposto di sottoscrivere un documento che di fatto, al quale era allegato, erano allegati sia i contratti di lavoro sia i criteri con i quali l'azienda CAI dovrebbe assumere il personale. I contratti tutte le organizzazioni sindacali non li hanno mai trattati. Questi ultimi 20 giorni non ci sono state trattative, ma c'è stata semplicemente la lettura da parte dell'azienda CAI di un documento che aveva preparato appunto l'azienda. Alle osservazioni sindacali non è seguita alcuna modifica sostanziale, sono stati cambiati esclusivamente 2-3 virgole. Questo assolutamente non è conforme a quello che era stato sottoscritto a settembre a Palazzo Chigi. E questo è il fronte del no. Ora, queste dichiarazioni sono state fatte nel momento in cui le agenzie battevano anche il ritiro dell'offerta della CAI. No, lo dico a chi sta scrivendo che si è messo in collegamento oggi, che si è messo in collegamento adesso, perché la CAI ha fatto sapere verso le 17:20 di non voler presentare più un'offerta definitiva per gli asset di Alitalia. Allora, hanno firmato CGL, CISL e UIL e sentiamo i motivi per cui hanno firmato. Sentiamo dalla CGL, che non è esattamente un sindacato così tenero e remissivo e arrendevole, eppure ha firmato il lodo Letta. Sentiamo perché dalla voce di Franco Nasso, che è segretario generale della FILT CGL. La stesura del contratto non è definitiva, perché ci sono i testi che ci sono stati consegnati nell'ultima occasione da CAI, che sono allegati al verbale di oggi, ma che hanno dei punti, come dire, ancora non risolti. Su quello si agirà, possibilmente senza tornare a Palazzo Chigi, se ci si riesce, senza chiedere insomma questa interpretazione autentica da parte del sottosegretario Letta. Il lavoro straordinario di impegno per tutti, di coinvolgimento dei lavoratori, ha una conclusione Ovviamente, siccome parliamo di un evento comunque doloroso, perché non c'è, come dire, insomma, un contratto sottoscritto nella maniera classica, qui sappiamo che comunque ci saranno, è vero, 12.600 assunzioni, ma anche molti lavoratori che andranno in cassa mobilità. Il problema dei precari, che ha una soluzione, quella di settembre, insomma, che dovrà essere in qualche maniera resa esigibile, e così via. Però si avvia un cammino, insomma, di percorso già delineato con gli accordi di settembre. Per noi che l'abbiamo sottoscritto, significa stare esattamente, insomma, in quella traccia. Voglio sperare, insomma, che anche chi oggi non ha riconosciuto in questo percorso, che appunto, ripeto, è ancora dinamico, insomma, la possibilità di concluderla, ci torni sopra. Vabbè, alcuni di voi dicono, vedrà che questa sera non la fanno volare su Alitalia, volerà in stiva, ma no, non è questo. Poi vediamo, vi racconto anche l'esperienza. In realtà alcuni di voi scrivono, ma insomma, sbagliate a dire che Alitalia fallisce per colpa di Berti, ma nessuno l'ha mai detto, né Berti né gli altri, stiamo solo dicendo che è una situazione di società già fallita, perché se fosse stato un gruppo privato era fallito da che mo'. Ora, dire sempre di no e arrivare anche adesso con l'ultimo capitolo, quando la cornice sembrava essere condivisa, dire ma non ci piacciono i criteri di selezione, beh, mi sembra un po' tirare la corda su una società che poco fa il commissario straordinario Fantozzi ha detto i soldi ci sono fino a fine novembre. È vero che questa cosa l'abbiamo già sentita, ma prima o poi finiranno veramente questi soldi di Alitalia. E allora? Non so, è sempre un po' surreale la vicenda quando ce ne occupiamo, ma ripeto, è colpa nostra che non abbiamo capito le reali motivazioni. Con questa ammissione di ignoranza e non comprensione vi auguro buona serata, ci risentiamo da lunedì in poi. A tutti voi un buon fine settimana, un ringraziamento a Mauro Del Corno, Barbara Bianchi per l'assistenza a Milano in redazione e a Gaia Romani qui a Roma.